cuore in un mare di sospiri a voi di stanchi ci negano una vita addensa nei rimpianti in una nube di sorrisi. A volte gli stacchi ci lasciano domande, risveglia la coscienza di essere privi d'ogni scienza. Io mi fermo e rifletto su di me per capire. Cosa sei per me? Sei una col nostro sguardo e le nostre emozioni in catena dei ricordi lo viviamo ancora di come al ventre di una madre succhiando la sua linfa non vitale ma fatale. Di sperare di avere una speranza, io mi fermo e rifletto su di me per capire. Yeah.